spesa. Dove? In sala d'attesa. Sarà la tua, sarà la sua, ma non sarà mai la mia. Ti spiego di cosa parliamo, partiamo dalla prima fase. Già 12 anni c'avevo i miei drammi, già avevo cambiato tre case. La prima colta, la prima canna, quella che ti spacca. D'inverno dentro una cacca, la cappa, l'erba e la bocca, l'incenso con l'acqua santa. Prima capisci che dura se si fuma stomaco vuoto. Capisci come si scopa col condom. Sai che l'amore si sposa con l'odio. Dopo il battesimo reggi per mesi, ma arriva il momento della confessione. Dover ammettere dentro se stessi di essere diversi dalle altre persone. Tu facevi la tua cresima forzata, io facevo la mia ennesima stronzata. I soldi non li ho presi, anzi li ho spesi. Taxi, voli, treni, autostrada. Tu già pensi alla trama dopo la bara. Io sto in para per la puta postata. Per un clap che c'è sulla testata. I miei fans sono truppa addestrata. Non facevo i compiti perché passavo le notti da morto vivente. Pensavate di essere più forti di me. Beh, ora non mi fotti, ho più colpi di te che sto con i più grossi di sempre. Fugo dai rimorsi, dai morsi di serpe. E la cosa bella è che metto il disagio nel flow. Basta gente però si diverte. Non vado in chiesa, ho già la mia. La coscienza pesa, in avaria. Una vita spesa, dove? In sala d'attesa. Sarà la tua, sarà la sua, ma non sarà mai la mia. Meglio l'eutanasia, meglio l'eutanasia. Sarà la tua, sarà la sua, ma non sarà mai la mia. Meglio l'eutanasia, meglio l'eutanasia. Giusto o sbagliato che sia, per me non c'è un'altra via. A 14 anni il battesimo, con una canna di Charas. Sotto una palma villata, pensando se mi sgama mamma mi spara. Poi bevo una birra fresca e ho già tutto chiaro in testa. Compro 25 grammi coi soldi della palestra. E ci vado sotto perché li fumo tutti. Vendere mai avuto la testa per farlo. Stavo in camera mia e ricreavo per l'arma. Chi mi conosceva i tempi stati che parlo. Freestyle di 4 ore su base a 3 attore, senza nemmeno Re Carlo. Sarà da fattone, ma quella merda là mi faceva sentire Re Carlo. Poi ho perso mio padre, 9 mesi dentro gli ospedali, me l'hanno ammazzato i medici. Ne abbiamo cambiati 16 che me lo lasciano morire, come glielo stego 113. Come? Vita tranello, mi hai tolto il premio ancora prima di averlo. E allora ho sposato sta merda, perché per farlo non mi serviva un anello. E ci convivo, anche se ogni tanto litighiamo. Sente quanti fantasmi li richiamo. Io le dico mentre piango che la amo, non le ho dimostrato altro. Da quando i pantaloni mi toccavano l'asfalto, adesso che prendo la rincorsa per fare il salto. Sono testardo, non ti aspettare che parto, le altre opzioni le scarto. Non vado in chiesa, ho già la mia. La coscienza pesa, in avaria. Una vita spesa, in sala d'attesa. Sarà la tua, sarà la sua, ma non sarà mai la mia. Meglio l'eutanasia, meglio l'eutanasia. Sarà la tua, sarà la sua, ma non sarà mai la mia. Meglio l'eutanasia, meglio l'eutanasia. Giusto o sbagliato che sia, per me non c'è un'altra via. Capisci che dura da quando giù in strada ti chiamano. Lo sai che se parli butti via gli schiaffi. Capisci che è meglio che parli col. Addosso c'avevo una tuta che era tanta roba. Canotta da tarro, la moda di Hulk Hogan. Non è che capivo lo stile, diciamo che ho avuto problemi di droga. Sì che ogni tanto ci parlo con Dio, ma non mi capisce, mi dice: cos'è che hai detto, zio? Quando mi faccio mi porto le mani sul collo e non so se mi strozzo mi abbraccio. Le croci le porto sul petto, ma non so se credo ma porto rispetto. Io spesso mi tocco le palle e combatto la sfiga. Non so se hai capito il concetto. Bra, oggi sto sul cartonato, ieri ero tutto incartonato. C'ho ancora l'oro in scatolato, fra e manco mi hanno battezzato. Gli altri ascoltavano ancora le madri con le filastrocche, fra con l'erba voglio. Io che giravo già l'erba nel foglio, si fuori dal campo zio perché tiravo di collo. All'intervallo io non mangiavo, fumavo in fondo al cortile. Ero già contro il sistema, anche se ancora non so che cazzo vuol dire. E oggi che io sono il primo fra e sento che scassi la minchia per ciò che racconto. Ti dico ringrazia che mi sono fatto, se no c'ero il primo fra e pure il secondo. Non vado in chiesa, ho già la mia. La coscienza pesa, in avaria. Una vita spesa, dove?